I giovani non lo ricorderanno, ma a Bologna, fino a metà degli anni Ottanta, c'era un cantante molto importante in quanto rappresentativo della cultura della città. Infatti cantava in dialetto e costituiva l'appuntamento fisso del Ferragosto bolognese. Stiamo parlando di Dino Sarti. Oggi siamo con Romano Trarè, vicepresidente dell'associazione Dino Sarti, in occasione di una serata spettacolo che andrà in scena al Bravo Caffè martedì 30 novembre. Una serata che ospiterà molte musiche e anche episodi della vita e della carriera di questo nostro illustre concittadino. Vorrei partire da quella che è stata purtroppo la fine di Dino Sarti, che è morto miseramente, è morto solo in povertà, dopo aver dato tanto a Bologna e dopo aver dato tanto alla cultura popolare bolognese. Quella di Dino Sarti è una vicenda veramente molto ingrata nei suoi confronti. Voi dell'associazione Dino Sarti avete fatto in modo, con grandi fatiche, che almeno un piccolo lembo di città della sua Bologna venisse intitolato a lui. Sì, è stata una delle prime iniziative che abbiamo messo in atto perché Dino Sarti, insomma, per quello che ha rappresentato per Bologna, era veramente dimenticato. Quindi questa è stata la prima iniziativa, cioè la richiesta al Comune di Bologna di intitolargli un luogo, cosa che è avvenuta nel quartiere Savena, un bellissimo giardino. È stato un po' il primo passo verso il rispolverare questo grande personaggio. Altre iniziative sono un concorso letterario che è alla quinta edizione, e la creazione di un'associazione appunto che riconosca tutti i suoi lavori, un archivio con tutti i suoi ricordi, il suo passato artistico. Ecco, ma che cos'era per quell'epoca il Ferragosto in Piazza Maggiore con Dino Sarti? È cominciato nel 74, mi sembra di ricordare, poi racconto un po' come andò. No, nel 74 perché Dino Sarti, appunto, in questa sua seconda vita, quella appunto dialettale, che inizia alla fine del 72 e esplode nel 73 come fenomeno nazionale, non bolognese. E questo particolare di questo fenomeno bolognese non passa inosservato al grande sindaco Renato Zangheri, che lo va a vedere e lo ingaggia. E lo ingaggia per il Ferragosto dei bolognesi del Che Dino 1974. Sarti non voleva fare nemmeno in Piazza Maggiore, aveva chiesto una piazza più piccola. Ma in realtà Dino Sarti firma il contratto alla fine appunto del 73, immaginava una piazza normale. Infatti, quando arriva a Bologna, perché in quel periodo suonava giù al mare, e arriva a Bologna e vede i cartelloni. Piazza Maggiore, concerto di Dino Sarti, lui rimane stupito, va subito dall'amministrazione e dice: ma come Piazza Maggiore? Ma è grande, ragazzi, è grande, Queste come facciamo? sono alcune cose, alcune chicche presenti nel tuo libro, nel libro che hai scritto assieme a Sergio Parisini. Anche lui bolognese trapiantato a Milano, che sarà con lui dal 72 fino all'ultima apparizione di Dino Sarti nel 2006. E quindi questo incontro è stata una scoperta incredibile perché ho avuto modo di conoscere la vita di Dino Sarti, sia artistica ma anche privata, dalla viva voce di un protagonista che è Sergio Parisini, che è stato Collaboratore, amico. collaboratore ma soprattutto anche grande amico, Certo. confessore, insomma, c'era un... e mi sono molto onorato di averlo come ospite speciale il 30 Di di novembre al novembre al Bravo. Bravo Caffè, insomma. Anche perché in questa serata si potrà capire effettivamente come Dino Sarti non è solo il cantante dialettale, ma abbia avuto anche delle frequentazioni con la canzone francese e anche personalmente, per esempio, con Jacques Brel. Beh, lui era Jacques Brel, il suo ispiratore, perché già negli anni 60, quando lui faceva appunto il cantante da night, il cantante da balera, il cantante dei grandi alberghi, nel suo repertorio aveva inserito Nathalie, aveva inserito alcune canzoni di Jacques Brel. Poi ha avuto anche l'incontro con Aznavour e anche di Aznavour ha inciso in bolognese alcune canzoni sue, tradotte dal francese. Benissimo, allora diamo appuntamento ai nostri ascoltatori martedì 30 novembre al Bravo Caffè per scoprire la parabola umana e musicale di Dino Sarti. Grazie, grazie, vi aspettiamo dalle 20, ci sarà la cena, poi dopo lo spettacolo scoprirete un Dino Sarti diverso da quello che avete sempre immaginato. Perfetto, ciao Romano, grazie, Ciao, ciao. grazie a te.